C'è un complotto, è una vera persecuzione. Ugonotti, protestanti, ebrei e illuministi, razze dure a morire, hanno abilmente orchestrato quello che da oggi in poi se ne dovrà parlare come di un mito. Il mito della Santa Inquisizione. Cominciamo da lì. Sì, vabbè, il compagno Thomas de Torquemada, in attesa della prossima revisione storica che lo condurrà alla beatificazione, si è effettivamente fatto prendere la mano. Ma poi, in tre secoli di perfetta funzionalità dell'Inquisizione, il numero dei morti tese innegabilmente a decrescere per frequenza. Per cui, compreso un poveraccio di insegnante che riuscì a farsi impiccare ancora nel 1826, buon ultimo almeno per il momento, in tutto, ma proprio in tutto, i morti della Santa Inquisizione possono essere calcolati fra i 12 e i 15.000, una bazzicola rispetto ai morti voluti e ottenuti dai tribunali normali. Non altrettanto una bazzicola, presumibilmente, per ciascuno di quei malcapitati che tra i 12 e i 15.000 si sono trovati a morire. Per Civiltà Cattolica e per il gesuita americano di turno, dunque, quella Santa Inquisizione dipinta così malevolmente da ugonotti, protestanti, ebrei e illuministi, tutta gente cui mancherebbe la giusta prospettiva storica, non era altro che una gioviale compagnia di buon temponi fin indulgenti verso la debolezza della carne altrui. Che alla pacca sulla spalla o allo scherzo del secchio d'acqua sulla porta del bagno preferissero lo strazio delle membra e il rogo è semplicemente una questione di stile e, a voler essere rigorosi, di fedeltà ai valori di un'epoca, valori che, come noto ai teorici dell'incommensurabilità, difficoltosamente riusciremmo a comprendere oggidì, come se si potesse mai immaginare un momento della storia del mondo in cui un urlo di dolore, per il poveretto che ha urlato, potesse essere confuso con un sommesso risolino di soddisfazione. E già che ci siamo, ce n'è un altro di complotto, una vera persecuzione. Giornalisti ugonotti, immagino, magistrati protestanti, mestatori ebrei e sotto sotto quasi certamente illuministi, hanno orchestrato quello che da domani in poi se ne dovrà parlare come di un mito, il mito della tangente e della corruzione del Partito Socialista Italiano. Sì, il compagno Chiesa si è effettivamente fatto prendere la mano, anche nel senso della mano nel sacco, ma poi, in 15 anni di perfetta funzionalità del Partito Socialista Italiano, è stato ampiamente dimostrato da chi ha mantenuto un'adeguata prospettiva storica che a rubare sono stati solamente i morti, cui, per quanto morti al momento opportuno, come ad ogni morto che si rispetti, c'è da far loro tanto di cappello. Per aver rubato così tanto, senza che neppure uno sveglio come Craxi ne sapesse nulla. Che il complotto ci fosse apparve chiaro fin da quando incautamente si permise la proiezione del portaborse, ove con realismo di dubbio gusto si citava il caso Teardo, il proto Mariuolo Ligure, Gli fecero causa al film, ne chiesero il sequestro sul territorio nazionale, ma la magistratura, ahimè e ai loro, non intervenne. Chiaro indizio di complotto, se non impedisci ad un film, che in quanto arte non dovrebbe intrattenere alcun rapporto con la realtà, se non in Unione Sovietica, almeno all'epoca dove imperava il cosiddetto realismo socialista, se non impedisce ad un film di ricordare una sentenza della magistratura che condanna un ladro, soprattutto se questo ladro è socialista, è segno che il tuo potere sta diminuendo, e se il tuo potere sta diminuendo, evidentemente è in atto un complotto. Tra il teorema del gesuita e quello di Craxi c'è almeno una differenza che salta agli occhi. Il gesuita dice che i morti in fin dei conti erano pochi per farci su tanto baccano, mentre Craxi non dice che i miliardi in fin dei conti erano pochi, anzi, sui miliardi rubati non dice alcunché. Il suo complotto, quello contro il Partito Socialista, è molto più complotto di quello contro la Santa Inquisizione, perché là l'oggetto del contendere, magari da valutarsi più benignamente, ma c'era, qui non c'è neppure. Magistratura, giornalisti e persecutori vari non meritano lo straccio di una risposta. Come ha detto De Michelis, più o meno alla stregua dei maiali della fattoria degli animali di Orwell, non possono arrogarsi il diritto di indagare su un ministro della Repubblica, Pofferbacco. Ci sarà pur qualcuno che, di fronte alla legge, è più uguale degli altri. Si tratterebbe allora di un attacco al Partito Socialista, e già che ci siamo, estendendo il concetto, nella misura in cui il socialismo è il baluardo di ogni democrazia, lo sanno tutti, contro la nostra stessa nella misura in cui è il baluardo di ogni stessa democrazia, e allora è un attacco anche contro la nostra stessa democrazia. Non vorrei, ha detto Amato, Stipsi e Boria, non vorrei che gli avvisi di garanzia costituissero la benzina per mandare in fumo la nostra democrazia. Vien qui il sospetto, per farla finita, che non abbiano capito bene. Che se la democrazia cui si riferiscono è solo tale per cui prima ruba la democrazia cristiana per 20 anni in solitudine e poi viene dato gradualmente il permesso ai socialisti, poi ai socialdemocratici ovviamente, poi ai repubblicani, poi a qualche comunista e basta aspettare che ce n'è poi per tutti, beh, forse non hanno ancora capito che di questa democrazia, allora costruita, costruita sulla resistenza, nel senso della loro resistenza, di questa democrazia ne facciamo volentieri a meno. Se permettessero loro, ce ne faremmo un'altra senza di loro. Se permettessero, perché questa composita masnada di golpisti, beh, è gente che non ha esitato a costituire e a mantenere una gladio pronta a intervenire nel caso le sinistre avessero avuto qualcosa da dire in questo paese, gente che non ha esitato a seminare stragi come noccioline, gente che non ha esitato a umiliare il cosiddetto Stato di diritto e a governare a suon di leggi speciali, chiamiamole leggi, se ce lo permettessero questa gente di farci una democrazia, perché a quanto pare quando non trovano i voti nell'urna, invece di chiedersi perché non li hanno trovati, pensano a una riforma elettorale che li lasci ugualmente al potere, così come quando uno di loro è chiamato a rispondere del suo operato alla magistratura, invece di risponderne, beh, si ricordano del fatto che quella stessa magistratura che era indipendentissima quando condannava e incarcerava i loro nemici, ora, guarda caso, indipendente non lo è più, ma manovrata da forze oscure che vorrebbero portare il paese allo sfascio. Forze oscure che peraltro, per quanto oscure e potenti possano essere, è difficile che riescano a far di peggio di quanto abbia già fatto questo regime. E allora si tratta proprio di un complotto, sì, di una vera persecuzione. Sì, di un complotto ordito da loro a tutto danno delle nostre facoltà decisionali e delle risorse che abbiamo prodotto, sia delle une che delle altre, infatti non ci rimane più nulla. Può dare un'idea ulteriore del clima ideologico del nostro paese un curioso e inquietante esempio di come si guarda in casa da altri. Spesso il modo di guardare dalla finestra la dice lunga sui pruriti di chi sta guardando. Nei giorni scorsi i cittadini svizzeri sono stati chiamati ad esprimersi in un referendum che proponeva loro di aderire al cosiddetto spazio economico europeo, no? Una sorta di, diciamo, da quanto ho capito, una prima mossa per poi entrare a tutto diritto in questa patetica caricatura di unità europea. Il giorno prima della consultazione, la nostra stampa, sempre così attenta alla neutralità del proprio linguaggio quando gli fa comodo, e invece con una disinvoltura vergognosa nell'occasione, la nostra stampa cercava di anticipare gli esiti del voto specificando quali categorie di cittadini svizzeri avrebbero votato a favore e quali contro. Beh, a favore venivano indicati i banchieri e gli industriali, i mass media, i sindacati, i maggiori partiti, i giovani e le università, diciamo la crema del pattume ideologico di questo fine secolo, mentre fra i pochi contrari venivano indicati i bottegai e i montanari, parole testuali, montanari nei titoli, che diventavano poi il popolino di montagna nel testo. Ovviamente il giorno dopo i brutti, sporchi, gretti e meschini, bottegai e montanari avevano vinto il referendum, mentre la creme l'aveva bellamente perso. Ecco dunque, per chi trinciava giudizi in casa d'altri, l'ennesimo momento in cui leccarsi l'ennesima ferita. Nel farlo, il Corriere della Sera supera se stesso e noi tutti con una conclusione davvero ignobile. Dice: il voto di ieri lascia l'amaro in bocca. La democrazia diretta trionfa in un paese da ricostruire e la vittoria del popolo è senza alternative. Da ciò, oltre a capire che il popolino quando vince diventa popolo, ci possiamo fare un'idea del clima sociale e culturale in cui stiamo vivendo. Ci hanno raccontato balle fino a che hanno potuto. Ora che è il momento di fare sul serio la democrazia diretta e il trionfo del popolo, sono quanto di più disdicevole possa capitarci. Semplicemente il potere ha perso la maschera. Thank you.